iniziare. Parole dal finale, un altro modo per stupire, per farti poi capire fra le mille canzoni scritte apposta per te. E vivo più che mai, io mi ritrovo adesso, un cuore boomerang, un battere diverso in una musica da risuonare a tempo. E noi siamo qua, mentre noi siamo qua. Non riesco a sopportare queste strade dove non c'è più niente da imparare, dove tutto quanto è saturo in questa capitale. Non c'è posto per me, ma non venirmi più a dire che è finita, soltanto perché la tua vita non è come quella mia. È una pura follia, un'astuta bugia, se ogni volta vai via e non so più chi sei, chi sei. E vivo più che mai, io mi ritrovo adesso, un cuore boomerang, un viaggio un po' all'inverso, il sole è un'isola e il cielo è un mare immenso. E noi siamo qua, mentre noi siamo qua. Prendi tutto quello che poi ti potrà servire, il tuo futuro, il tuo lavoro e il tuo avvenire.